Perfetto Notte, le notizie in 60 minuti. Sono le 21.02, un saluto, buonasera da Gigi Donelli, benvenuti a Effetto Notte, anche da Cristian Goldoni in assistenza, da Pietro Laccorte in regia, uno spazio in cui naturalmente siete abituati alla voce di Roberta Giordano, che si riprende, speriamo presto, da una malattia. Naturalmente le facciamo tutti i nostri migliori auguri e le notizie avanzano ogni giorno, e quindi adesso ripartiamo come di consueto dai titoli. INPS, in 20 giorni 76.000 richieste di decontribuzione presentate da aziende per le assunzioni a tempo indeterminato. Inchiesta Grandi Opere, 25 milioni di appalti all'imprenditore, consulenze a incalza, lavori al figlio del ministro Lupi, ma anche il delitto di Garlasco. Chiara si fidava, è stata massacrata senza fatica, così nella motivazione della condanna di Stasi. Per lui, lei era una presenza scomoda. E ancora la Grecia, Tsipras accordo con l'UE entro il vertice del 19. Intanto Atene ripaga 584 milioni di prestito al Fondo Monetario Internazionale. Berlino insiste che la Grecia resti nell'euro, ma anche Putin, che riappare in pubblico e scherza sulla sua prolungata assenza, dice che noia senza pettegolezzi. Il presidente russo dunque riappare al Cremlino, ma non fuga proprio tutti i dubbi sulle circostanze particolari di queste giornate. Eccoci qua dunque alcuni dei titoli che andiamo a sviluppare. Naturalmente partiamo, come è giusto che sia, in primo piano l'inchiesta sulle tangenti per gli appalti nelle grandi opere, dentro anche Expo e la TAV. Quattro arrestati, una cinquantina di indagati, perquisizioni in tutta Italia. Gli appalti per le grandi opere tornano al centro delle cronache giudiziarie. L'inchiesta di Firenze ruota attorno ad Ercole Incalza. Per anni super manager di primo piano del Ministero delle Infrastrutture, l'uomo è finito in manette assieme all'imprenditore Stefano Perotti. Corruzione e turbativa d'asta sono alcuni dei reati contestati alla nuova cricca, che secondo gli inquirenti avrebbe allungato le sue mani su gran parte degli appalti per l'alta velocità e non solo. Il procuratore capo di Firenze, Giuseppe Creazzo. La direzione dei lavori di queste grandi opere veniva molto spesso, quasi sempre, affidata all'ingegner Perotti in virtù di un accordo che noi riteniamo di natura illecita, che vedeva poi trasferire attraverso una società, affidare consulenze retribuite allo stesso ingegner Incalza. Nelle intercettazioni compare anche il ministro delle Infrastrutture, Maurizio Lupi, il cui figlio Luca era a libro paga di una delle società coinvolte. L'esponente di NCD non è indagato, lo sono invece altri politici di secondo piano. Fra gli indagati c'è anche Antonio Acerbo, ex manager di Expo, già arrestato nell'inchiesta milanese sulla cupola degli appalti. Per lui l'accusa è quella di aver pilotato la gara per la realizzazione di Palazzo Italia. Andrea Viali, Radio 24, Il Sole 24 Ore. Se viene abolita la struttura tecnica di missione, non c'è più il governo. Era arrivato a minacciare la fine dello stesso esecutivo il ministro Maurizio Lupi davanti all'ipotesi che la rottamazione travolgesse pure Ercole Incalza, il super dirigente riconfermato dagli ultimi 7 governi. E le sue parole, registrate dalle intercettazioni a dicembre, mostrano ora, secondo gli inquirenti, non solo l'importanza di quell'ufficio, ma anche la natura del rapporto tra l'attuale titolare delle infrastrutture ed Incalza, il dominus totale ercolino che fa il bello e il cattivo tempo, dice un dirigente delle ferrovie. È lui che decide i nomi, come quello del viceministro Nencini, lui che individua le grandi opere da finanziare, lui che sceglie quali mandare avanti, scrive il GIP. E sono citate praticamente tutte le ultime grandi opere, dall'alta velocità al Palazzo Italia di Expo, dalla metro di Milano e Roma al porto di Trieste, fino all'autostrada in Libia. E lo schema si ripete uguale: Incalza favorisce l'imprenditore Perotti e lui a sua volta compensa con ricche consulenze o incarichi al figlio del ministro, Luca Lupi, il ragazzo, come lo chiama. Una collaborazione che preoccupa però gli stessi imprenditori, proprio perché può essere immaginata, si legge nell'ordinanza, come corrispettivo di utilità fornite da Lupi. Ma Perotti sa bene che se ha fatto i soldi, ammette la moglie, è proprio grazie alla politica. Raffaella Calandra, Radio 24, Il Sole 24 Ore. E dunque il nome del ministro Lupi naturalmente ha una valenza particolare all'interno del mondo politico. Allora sentiamo da Vincenzo Miglietta quali sono state le reazioni. La notizia lo raggiunge in Veneto, dove è impegnato nel tour elettorale. Il ministro Lupi difende così prima Incalza, definendolo un tecnico tra i più autorevoli, quindi suo figlio. Non ho mai chiesto all'ingegner Perotti né a chi che sia di farlo lavorare, non è nel mio costume e sarebbe un comportamento che riterrei profondamente sbagliato. La difesa di Lupi non è tuttavia sufficiente a fermare l'inevitabile polemica politica. Il ministro si deve dimettere, dicono i 5 Stelle. Serve un chiarimento in aula, aggiunge Sell, perplessità anche nel PD, con il deputato Borghi che chiede sul sistema delle infrastrutture un vento di cambiamento. L'indagine di Firenze accelera di fatto anche il dibattito sull'anticorruzione. Il governo presenta al Senato l'emendamento sul falso in bilancio. Il ministro della Giustizia Orlando commenta: sono convinto che le condizioni ci siano tutte e che il lavoro parlamentare sarà molto veloce nei prossimi giorni. Una legge anticorruzione è sempre più urgente, dice il senatore Cioffi, 5 Stelle. È assolutamente indispensabile in questo momento, con questi arresti che stanno avvenendo, che la legge anticorruzione diventi legge. Sulla vicenda Incalza interviene infine anche Di Pietro e ricorda: da ministro lo feci subito rimuovere dall'incarico. Vincenzo Miglietta, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Roma. E ora cambiamo argomento. Nei primi 20 giorni di febbraio molte imprese hanno fatto richiesta per gli incentivi statali per la decontribuzione. Sentiamo il servizio. Buone notizie dal mercato del lavoro. Le imprese tornano ad assumere. A febbraio già in 76.000 hanno fatto richiesta per usufruire degli sgravi fiscali per i nuovi assunti a tempo indeterminato previsti dalla legge di stabilità. Ma le persone coinvolte potrebbero essere molte di più, a riferirlo il presidente dell'INPS Tito Boeri. Noi i primi dati che abbiamo sono incoraggianti, in quanto nei primi 20 giorni si parla di circa 76.000 imprese che hanno fatto richiesta, quindi potrebbero essere anche molte di più le assunzioni, questo è il numero di imprese che ha fatto richiesta. Intanto la Fondazione Consulenti del Lavoro calcola già che a fronte delle 76.000 imprese che hanno fatto richiesta del codice di autorizzazione per l'esonero contributivo, sono circa 275.000 i lavoratori assunti a tempo indeterminato tra gennaio e febbraio. Nell'80% dei casi si tratta di stabilizzazione di un rapporto di lavoro precario e solo nel 20% di nuove assunzioni. Per il ministro del lavoro Poletti, in ogni caso, questi dati dimostrano un'importante azione di intenzione del sistema imprenditoriale italiano ad assumere. Le riforme per il lavoro danno frutti per ridare centralità al lavoro stabile, commenta Filippo Taddei, responsabile economia del PD. Alessandra Schepisi, Radio 24, Sole 24 Ore, Roma. Intanto viene pubblicato il rapporto mensile dell'ABI, aumentano le sofferenze sui prestiti, ma aumentano anche i mutui. Più che una novità è una conferma. Per le banche prestare soldi è sempre più rischioso. A gennaio le sofferenze bancarie, ovvero quei crediti difficili da recuperare, sono arrivate a rappresentare quasi il 10% degli impieghi, valore più alto da 19 anni. Si tratta di oltre 185 miliardi di euro di prestiti a rischio, spiega l'ABI. L'Associazione delle Banche Italiane mercoledì riunirà il comitato esecutivo. Sarà presente anche il ministro Padoan, che da tempo sta cercando proprio di capire come gestire questo tipo di crediti. Nonostante l'aumento delle sofferenze, qualche dato positivo c'è. Nel trimestre novembre-gennaio i finanziamenti alle imprese sono saliti del 4% annuo, i mutui di oltre il 35%, le nuove operazioni di credito al consumo dell'8,1%, grazie anche ai tassi che in media restano ai minimi storici al 3,57%, prima della crisi erano al 6,18%. Sono arrivate intanto anche le prime indicazioni per febbraio, che segna il migliore risultato da luglio 2012. I prestiti a famiglie e imprese scendono, ma un po' meno, meno 1,4 dal meno 1,5 di gennaio. Livia Zancanera, Radio 24, Il Sole 24 Ore. Ed ora uno sguardo alla pagina internazionale. Pochi momenti fa le agenzie battono una notizia, un lancio che riguarda il delitto Nemtsov. Secondo l'avvocato di Dadaev, che è l'uomo considerato in questa fase il sospettato numero uno, ci sarebbe invece un alibi e la prova dunque della non colpevolezza del suo assistito. Staremo a vedere. Altra notizia, ma ne parleremo più avanti. Domani le elezioni politiche in Israele, Netanyahu in calo nei sondaggi, cerca fino all'ultimo momento di recuperare il terreno promettendo nuove colonie a Gerusalemme Est, ma come vi ho detto di questo parliamo nella seconda parte. E ora invece a Vanuatu, dunque l'arcipelago del Pacifico meridionale completamente devastato dal passaggio del ciclone tropicale Pam. Il servizio. Sul banco degli imputati ci sono i cambiamenti climatici, secondo il presidente precedente di Vanuatu. Sono loro che hanno contribuito alla potenza devastante del ciclone PAM categoria 5, la più elevata della scala, con venti oltre i 320 km orari, che ha raso al suolo interi villaggi nelle 83 isole dell'arcipelago del Pacifico meridionale. Sono ancora in corso le ricerche delle vittime, si teme siano centinaia, si parla per ora di 6 morti e oltre 30 feriti nella capitale Port Vila, distrutta al 90%, e di oltre 40 dispersi. L'allarme del presidente Baldwin Lonsdale è stato lanciato dal Giappone, dove partecipa proprio a una conferenza delle Nazioni Unite sulla prevenzione delle catastrofi naturali. Le comunicazioni sono interrotte, non possiamo raggiungere le nostre famiglie, ma dietro i cambiamenti climatici c'è l'uomo e la mancata lotta all'inquinamento che, secondo Silvio Gualdi, climatologo del Centro Euromediterraneo sui cambiamenti climatici, causerà sempre più questi disastri. Se continuiamo lungo questa strada, in futuro potremo dover fronteggiare più frequentemente casi come quello di Vanuatu. Anna Marino, Radio 24, Sole 24 Ore. E ora torniamo in patria. Omicidio di Garlasco. Pubblicate le motivazioni della sentenza su Stasi. Ha ucciso Chiara perché era una presenza scomoda. Alberto Stasi ha brutalmente ucciso la fidanzata, che evidentemente era diventata una presenza pericolosa e scomoda per un ragazzo perbene, studente modello, da tutti apprezzato. Lo scrivono nelle motivazioni i giudici della sentenza di appello bis con cui Alberto Stasi è stato condannato a 16 anni. Chiara è rimasta del tutto inerme, si legge nelle 140 pagine depositate in cancelleria, perché aveva così fiducia nel visitatore da non fare assolutamente niente, tanto da venire massacrata senza alcuna fatica, oltre che senza alcuna pietà. Stasi poi ha sviato le indagini ed è così riuscito a rallentare gli accertamenti, anche grazie agli utili errori commessi dagli stessi inquirenti. Tra le prove decisive indicate dai magistrati, le impronte di Stasi, e non quelle di altre persone, sul dispenser del sapone del bagno della Villa dei Poggi e la perizia sul tappetino della golf dell'imputato, che ha escluso il passaggio di Stasi dal luogo del delitto come da lui raccontato. Quanto al movente, i giudici non sono in grado di fornirlo. Si limitano a ipotizzare che la scoperta di Chiara della passione di Alberto per la pornografia avrebbe potuto provocare discussioni anche con una fidanzata di larghe vedute. Si può quindi sostenere, proseguono i giudici, che anche se il movente dell'omicidio è rimasto sconosciuto, ancora una volta è la scena del crimine a individuarlo in quel rapporto di intimità scatenante un'emotività che non può che appartenere ad un soggetto particolarmente legato alla vittima. Roberta Pellegatta, Radio 24, Il Sole 24 Ore. E quando sono le 21:14 e 20 minuti parliamo un momento di calcio. Dario Ricci, buonasera. Buonasera, buonasera Gigi, belli aggiornamenti su questo ricco lunedì di campionato. Partiamo da Roma-Sampdoria, che sono in campo sotto una pioggia a dirotto all'Olimpico, 12° di gioco, ancora 0-0. Sorride invece l'altra metà di Roma, quella biancoceleste targata Lazio, perché trascinati da Felipe Anderson e gli uomini di Pioli hanno vinto all'Olimpico di Torino 2-0 appunto per la Lazio, grazie alla doppietta al 70° al 78° del brasiliano, che è così salito a quota 8 gol in campionato. La notizia di giornata però arriva da Firenze, dove il Milan ha subito l'ennesimo KO, 2-1 per la Fiorentina. Rossoneri, pensa Gigi, in vantaggio al 55° con Destro, bravo a sfruttare un rimpallo a centro area. Nel finale, in 7 minuti, la rimonta Viola, all'83° Gonzalo Rodriguez e all'89° il colpo di testa decisivo di Joaquin. Chissà mai che questa non sia stata l'ultima panchina rossonera per Filippo Inzaghi. Staremo a vedere. Grazie a Dario Ricci. Quando sono ormai le 21:15 minuti, in realtà mi sono distratto un attimo perché negli schermi vedevo forse la possibilità di annunciare un gol nella sfida tra Roma e Sampdoria, invece nulla di fatto. Adesso sentiamo la viabilità e poi torniamo insieme. Effetto notte, le notizie in 60 minuti. Ancora buonasera da Gigi Donelli, benvenuti dunque a Effetto Notte quando sono le 21:17. Dunque, i titoli di questa giornata: abbiamo parlato adesso delle notizie dall'estero, della cronaca nazionale, ma la notizia di apertura per noi e per molti è l'inchiesta, una nuova inchiesta, grandi opere, 25 milioni di appalti all'imprenditore, consulenza in calza, lavori al figlio del ministro Lupi. Questa la sintesi. Allora ripartiamo da questo punto con Raffaella Calandra, che ci fa il punto sull'inchiesta, naturalmente anche su questo nome, il nome di questo ingegnere per molti praticamente sconosciuto. Raffaella. Sì, Gigi, sconosciuto ai più, ma il dominus degli appalti pubblici italiani per ammissione di uno stesso alto dirigente delle ferrovie in una intercettazione che è riportata agli atti. Ercole Incalza era entrato nel mondo delle infrastrutture già quasi 30 anni fa con il governo Craxi ed è rimasto fino ad oggi sempre allo stesso posto con incarichi diciamo simili, confermato e riconfermato ultimamente da ben sette diversi governi. È lui che scrive il GIP nell'ordinanza, che decide i nomi, compreso quello del vice ministro Nencini, lui che individua le grandi opere da finanziare e quelle da bloccare e sceglie anche quali invece mandare avanti. Insomma, il vero dominus degli appalti pubblici che, secondo la Procura di Firenze che ha avviato questa inchiesta, faceva in modo, anche attraverso le pieghe, tutte le pieghe normative che ben conosceva, di far arrivare gli appalti sempre all'imprenditore Stefano Perotti, che lui e lui a sua volta lo ricompensava con ricche consulenze o appunto, come già citavi, incarichi per il figlio del ministro Luca Lupi, il ragazzo come è chiamato nelle conversazioni, che viene coinvolto in un cantiere anche dell'Eli, una collaborazione che però a un certo punto ha preoccupato gli stessi imprenditori perché poteva essere immaginata, nota lo stesso giudice nell'ordinanza, proprio come un corrispettivo di utilità fornite dal ministro Lupi attraverso Incalza. Il ministro smentisce tutto, però chiaramente si va a toccare in questa inchiesta un punto nevralgico della vita italiana, perché si toccano alcune tra le più importanti grandi opere recenti, dall'alta velocità al Palazzo Italia di Expo, dalle metro di Milano e Roma ai porti di Olbia e Trieste fino all'autostrada della Libia. Quindi sicuramente si è andati a toccare un punto di potere nel rapporto tra la politica e l'imprenditoria, su cui ora bisognerà anche fare ulteriormente luce, perché sicuramente c'è un aspetto che riguarda proprio i rapporti con la politica che andrà ancora scandagliato più di quanto l'ordinanza di oggi non abbia già portato alla luce. Grazie a Raffaella Calandra, dunque ci ha dato il quadro di questa inchiesta che è appena iniziata, ricordiamolo, quindi non chiudiamo subito, come dire, lo stigma della colpa su chi viene appunto coinvolto in un'inchiesta. A proposito di Lupi, naturalmente il nome più in vista, Lupi ha già fornito delle spiegazioni sul figlio, siamo in inizio inchiesta ed è prematuro trarre elementi di colpevolezza per il ministro del governo, così poco fa il sottosegretario alla presidenza del Consiglio Graziano Del Rio, intervenendo 8:30 sulla 7. Questa sera abbiamo invitato a raggiungerci, lo ringraziamo, il professor Carlo Carboni. Buonasera professore. Buonasera, buonasera agli ascoltatori. Carlo Carboni è ordinario di sociologia economica presso la facoltà di economia Giorgio Fua dell'Università Politecnica delle Marche, ha scritto tra l'altro L'implosione dell'elite, leader contro in Italia ed Europa, edito da Rubettino, ed ha si è occupato anche di quel tema che questa vicenda comunque ci suggerisce e non nuova, cioè quella del nepotismo, quella dei rapporti appunto di vicinanza che in realtà sconfinano a volte addirittura nell'illegalità. Professore, in primo luogo, quanto è ancora forte e in quali settori è così forte questa tradizione italica, ammesso che sia italica solamente? Beh, intanto sì, è una tradizione italica, perché nepotismo poi è una parola che è stata mutuata anche in lingua inglese, nepotism, no? Quindi è una nostra parola, perché il nepotismo nasce in Italia, viene riconosciuto in Italia addirittura 600 anni fa, era una pratica papale che favoriva appunto parenti, figli e nipoti, e quindi insomma è sicuramente italiana. Non è però certo solo italiana, perché non so, io ricordo per esempio anche quell'episodio che fu abbastanza clamoroso sui giornali, non solo francesi ma anche d'Europa, che riguardava il figlio di Sarkozy, Jean, che qualche anno fa fu candidato amministratore dell'Alta Senna, no? Favorito appunto, che era poi un feudo familiare per i Sarkozy, favorito appunto dal presidente francese. Un ragazzo giovanissimo, la notizia fece peraltro appunto scalpore all'interno della comunità dell'informazione francese. Ma certo, poi in Italia, l'Italia presenta, non so, basta guardare che tra gli attuali architetti, avvocati, ingegneri e medici, circa 4 su 10 sono figli rispettivamente appunto di architetti, avvocati, ingegneri e medici. E in alcuni casi il nepotismo addirittura in Italia è istituzionalizzato, come capita pieno titolo nell'asse ereditario in qualche modo, e potremmo definirlo addirittura un nepotismo garantito. Certo, poi il nepotismo, questo perché? Perché il nepotismo fa molto rima con familismo e corporativismo, cioè due aspetti della cultura sociale italiana che sappiamo molto diffusi ed endemici. Ecco, quindi preoccuparsi per i figli ovviamente è legittimo. Quando è che si supera il limite? Ora, in questa ipotesi che oggi ci dà lo spunto, cioè il fatto che all'interno di pratiche economiche che coinvolgono la politica ci possa essere anche solo il vantaggio, ci appare evidente. Però ci sarà una linea di confine, perché lei prima citava le pratiche, il passaggio del mestiere dal padre in figlio. In realtà quella nella percezione collettiva non è vissuto come una cosa negativa. No, non è vissuto come una cosa negativa, però il problema è questo, che fa rimanere l'ascensore sociale abbastanza fermo al piano dov'è. Ecco, questo forse è uno degli aspetti più... soprattutto i ceti medio-bassi, diciamo la verità, perché quelli alti vedono perpetuarsi la loro superiorità attraverso appunto le generazioni, in qualche modo tramandando queste professioni o queste posizioni d'autorità. Non dimentichiamo che il nepotismo è endemico, ma è endemico soprattutto a chi ha delle posizioni di potere o d'autorità attraverso le quali riesce a favorire appunto un figlio o un parente, insomma, tutti ce lo ricordiamo, Renzo Bossi, no? Consigliere regionale di parto, ma anche quello fu insomma un episodio, se vuole, di nepotismo naturalmente. Ecco, visto che lei cita il caso di Bossi e quella delle relazioni dei politici, quello divenne un caso, diciamo, intollerabile ai più quando fu legato alla modalità in cui il ragazzo in quel caso utilizzava il suo potere, perché non dobbiamo neanche essere ipocriti, nel momento in cui entrò nella regione Lombardia, tutto sommato non si alzarono poi enormi levate di scuse. Come dire, se il ragazzo in gamba c'è un po' di tolleranza, se invece si dimostra anche inadatto al compito, è questo un po' il discrimine attuale? Il nepotismo può essere molto sfavorevole al merito, e credo che tutti noi, almeno in linea teorica, dovremmo essere per il merito, no? Cioè certo, non ci garantisce che effettivamente quella posizione sarà ricoperta da una persona con merito, proprio perché è favorita e agevolata e magari non deve fare un concorso, magari non deve affrontare una selezione. È questo il punto. Se poi il figlio di un politico, come dire, conserva il genius del politico ereditato dal padre ed è altrettanto bravo, oppure il figlio di un architetto è altrettanto bravo, questo insomma non è che evidentemente disturba. Dice tanto meglio, ma si faccia la sua strada. Una ultima battuta: se c'è un luogo dove si parla molto di questo fenomeno è l'università. Certo, infatti è ancora così. Volevo anche dire prima, non fa rima solo con familismo e corporativismo, ma fa rima anche con le baronie, con baronismo, insomma. Non è un mistero, eppure guardi, nelle università, come sai, il reclutamento è rigidamente, come dire, regolato da concorsi in cui i commissari devono dichiarare ogni volta che non hanno un rapporto di consanguineo con nessuno dei candidati, eppure si trovano sempre i metodi per aggirare queste regole. Quindi sa, quando un fenomeno è molto radicato nel malcostume, diciamo, anche di una, non vorrei dire di una classe dirigente, perché è assai più diffuso della classe dirigente, molto della classe dirigente, è molto difficile anche combatterlo. Sicuramente in alcuni casi bisogna pulirlo quando è lecito punirlo. Quantomeno. Professor Carboni, in una battuta, c'è dal suo osservatorio personale una tendenza alla, come dire, alla compressione di questo fenomeno, o tutto corre liscio, diciamo, in questo ambito? Purtroppo, ecco, bisogna intendersi un po' quale. Sicuramente il nepotismo, diciamo quello lecito, che magari subisce qualche sanzione morale, ma è ancora nelle regole, mi pare che ancora sia vivo e vegeto. L'altro si nasconde, quindi si nasconde, ed è molto spesso addirittura cartina al tornasole della presenza di un sistema corruttivo, cioè a volte il nepotismo è proprio frutto anche di un sistema corruttivo. Ed ecco che è molto grave. Ed ecco che in qualche modo ci riporta anche a quello che poi ha sollevato il nostro spunto e la nostra preoccupazione. Grazie a Carlo Carboni, lo ricordo, ordinario di sociologia economica, tra i suoi studi appunto l'implosione delle elite e un capitolo dedicato proprio a questo fenomeno che tra l'altro, e l'ha detto il professor Carboni, ha un effetto di spegnere letteralmente l'ascensore sociale, che appunto è la valvola non solo di sfogo ma è l'ossigeno della società in cui viviamo. 21-28 minuti, chiudiamo questa parte, torneremo tra non molto con una pagina internazionale, a tra pochissimo. Effetto notte, le notizie in 60 minuti. Europa 24 notte. E ora ripartiamo come di consueto nello spazio dedicato all'Europa, un collegamento che ci porta a Bruxelles. Beda Romano, corrispondente del Sole 24 Ore. Buonasera Beda, innanzitutto, giornata dunque di incontro tra i ministri dell'esteri dell'Unione. Molti temi, ma direi soprattutto la Libia. Sì, buonasera. La Libia è stata al centro dei colloqui oggi dei ministri degli esteri. Naturalmente si è discusso delle trattative che si stanno svolgendo a Rabat in Marocco sotto l'egida delle Nazioni Unite, che stanno riunendo in questa circostanza le varie fazioni libiche nel tentativo di trovare un accordo per la formazione di un governo di unità nazionale. Il paese è alle prese con uno sconquasso politico e istituzionale molto grave che sta inevitabilmente preoccupando l'Europa. Un alto responsabile europeo, parlando in via anonima qualche giorno fa, ha detto che la crisi libica rassomiglia alla crisi afghana, salvo che questa volta è a meno di 100 miglia dalle coste europee. Quindi c'è molta preoccupazione per questa situazione, da un lato perché si teme che la Libia possa diventare la culla di nuovi estremisti islamici pronti a compiere attentati in Europa, e poi naturalmente perché dalla Libia arrivano molti migranti clandestini sulle coste europee, in particolare italiane. Quindi i ministri hanno discusso della situazione libica e si sono trovati d'accordo sul fatto di dare mandato all'alto rappresentante per la politica estera e di sicurezza Federica Mogherini perché quest'ultima prepari per i ministri a breve, non è specificato quanto, ma immagino nelle prossime settimane, possibili attività di sicurezza e di difesa che l'Unione Europea potrebbe approntare in Libia una volta che ci sarà un nuovo governo nel paese. L'Ucraina sembra in qualche modo essere svanita dall'orizzonte, di sicuro lo è dall'orizzonte dell'informazione per lo più. È ancora un tema di dibattito quando i ministri degli esteri dell'Unione si incontrano? Lo è di sicuro, lo è, continua ad esserlo. Il problema in questo momento è decidere se e come rinnovare le sanzioni che verranno a scadere nelle prossime settimane e nei prossimi mesi. Le sanzioni che sono state adottate dall'Unione Europea nel corso del 2014 sono sanzioni sia contro entità, sia contro persone, sia contro settori economici ucraini e russi. E queste sanzioni durano un anno e vengono a scadere proprio tra marzo e giugno. Ecco perché se ne sta parlando. Vi è da parte di alcuni paesi il desiderio di rinnovare le sanzioni contro i settori economici fin da subito, senza aspettare luglio, perché queste qui in particolare scadono in luglio. Altri paesi invece sono molto più restii a prendere decisioni così rapide e quindi frenano. La questione verrà discussa a livello di capo di Stato e di governo fra giovedì e venerdì qui a Bruxelles, perché c'è un Consiglio europeo, e l'impressione è che il Presidente del Consiglio europeo, Donald Tusk, che è un ex primo ministro polacco, tenterà di cogliere l'occasione per imporre un rinnovo di queste sanzioni economiche, è difficile che ce la faccia perché molti paesi sono contrari ed è un argomento per cui c'è bisogno dell'unanimità dei paesi membri. Europa 24 notte, in collaborazione con Euronet Plus. E adesso parliamo di Russia. Sono giorni ormai, sono stati parecchi giorni in cui si sono letteralmente rincorse le voci su Vladimir Putin, il presidente russo, onnipresente nei telegiornali, sulla televisione. A un certo punto non si vede più, passa un giorno, due giorni e questo diventa una notizia. Insomma, dopo i giorni del mistero, Putin torna a farsi vedere e scherza anche con il suo ospite sui tanti pettegolezzi che hanno circondato la sua assenza. Tutto nella norma al Cremlino? Lo chiediamo ad Antonella Scott. Buonasera Antonella. Buonasera. Non mi sembra, no, che si possa essere tranquilli, perché l'apparizione, il ritorno di Putin non ha certo sgombrato il campo, non ha certo dato risposta appunto a tutte le domande che ci siamo posti nei giorni scorsi, al di là del fatto che e qui naturalmente sulla sua aspetto fisico ci saranno, si alimenteranno altrettante voci, indiscrezioni, però sicuramente non sembrava essere molto in forma, ecco, apparso pallido, sudava, era un po' impettito, e comunque l'incontro con il presidente kirghizo è durato molto poco, il presidente Putin si è fatto ritrarre seduto, ma al di là di questo il presidente non ha certo, non ha voluto rispondere, al di là di questa battuta, appunto il commento ironico sul fatto che senza i pettegolezzi ci si annoierebbe, non c'è nessuna informazione in più su quello che è successo nei giorni scorsi. E quello che credo sia inquietante sono tutte le riflessioni che sono state fatte, che hanno un po' mostrato un paese che comunque non sa intanto comportarsi come un paese normale, in cui un leader può tranquillamente ammalarsi e farlo sapere senza che succeda niente. Un'altra cosa particolarmente inquietante è tutto quello che circonda il caso Nemtsov, come ricorderete, il leader dell'opposizione che è stato ucciso il 27 febbraio scorso a Mosca. Ecco, le congetture su chi potrebbe essere stato a volerlo eliminare fanno pensare a una lotta di potere che potrebbe essere questa una delle ragioni per cui Putin si è tenuto in disparte in questi giorni. C'è uno scontro molto sotterraneo tra i servizi di sicurezza, l'FSB, e il presidente ceceno Kadyrov, che potrebbe essere stato il mandante dell'omicidio. Quindi quello che sta succedendo, probabilmente un Putin che non si immaginava che ci possano essere delle fratture di questo tipo tra i servizi che sono sempre stati la base più solida del suo potere, e queste forze che si sono radunate intorno al presidente ceceno Kadyrov. Ecco, questo potrebbe essere naturalmente soltanto un'ipotesi, sono congetture che sono state fatte, però che tradiscono un'incrinatura nell'equilibrio di potere che Putin ha costruito e che quindi ci possono lasciare, lasciano comunque molti dubbi aperti su quello che è successo in questi giorni. Grazie ad Antonella Scott. Insomma, pettegolezzi no, congetture molte e interrogativi che rimangono. Grazie ancora ad Antonella Scott per essere stato con noi questa sera. Grazie a voi. E adesso invece ci colleghiamo con Gerusalemme, dove c'è l'inviato del Sole 24 Ore, Ugo Tramballi. Buonasera Ugo intanto. Buonasera. E dove naturalmente si attende il voto di domani, una lunghissima campagna elettorale con alcuni momenti molto conflittuali, i viaggi di Netanyahu negli Stati Uniti, le polemiche col presidente degli Stati Uniti, polemiche magari a distanza, ma tant'è. Allora, la domanda iniziale, Ugo Tramballi, è pronostico per domani. Vincono i laburisti dopo aver atteso questa vittoria dal 1999, ma diversamente dal passato, solo nel 1992 hanno vinto veramente. Mi spiego, la vittoria dei laburisti, che è prevista da tutti i sondaggi, è una vittoria sui numeri, cioè il partito principale sarà nei laburisti, ma nessuno si espone a prevedere che il partito laburista, cioè in realtà il sionismo unito, cioè il partito laburista più la personalità di Tzipi Livni, che praticamente è rimasta senza partito, vinceranno le elezioni, ma non è detto che siano in grado di poi di formare un governo, nel senso che nel sistema estremamente complicato e praticamente che non permette alcuna vittoria a nessun partito, è di un proporzionale puro, c'è il rischio del partito che vince poi non riesca a formare il governo con tanti altri piccoli partiti. Il problema è che il fronte variegato dei partiti del centro-sinistra potrebbe non vincere rispetto al fronte variegato dei partiti di centro-destra o anche di destra estrema. Questo significa che Bibi Netanyahu, pur magari perdendo 4 seggi rispetto un partito laburista, potrebbe essere in grado di formare il suo quarto esecutivo, cosa che non è mai capitata nemmeno a Ben Gurion. Quindi insomma, mentre da una parte, come hai detto, hai esordito dicendo, dunque vincono i suoi avversari, però lui potrebbe essere il successore a se stesso alla capo del governo. Sì, è una specie di incubo di molti israeliani. Di Netanyahu significa sicurezza. Questa campagna si è divisa equamente su due grandi temi: il tema dell'economia, che sembra poi un tema apparentemente senza senso, perché l'economia israeliana funziona benissimo, quest'anno è prevista una crescita del 3%, l'anno prossimo del 3,5%, è il paese dell'high tech per definizione, però proprio in un paese come Israele, che è diventato ricco, diventa sempre più insopportabile che esistano così tanti poveri. E l'altro tema è veramente, come sempre, quello della sicurezza. Il primo tema è quello economico, sviluppato principalmente dai partiti di centro e di centro-sinistra. Quello della sicurezza ha insistito invece dai partiti dell'Likud e da tutti i partiti che sono alla destra dell'Likud, i partiti nazionali religiosi. Ma la cosa appunto curiosa è che fino a stasera, quando Bibi Netanyahu ha detto che se vince non ci sarà uno Stato palestinese, fino ad ora tutte le domande che venivano fatte a Netanyahu su che cosa sarebbe successo con la trattativa di pace con i palestinesi, la risposta era sempre l'Iran, la Siria, l'ISIS, non andavano mai sul problema centrale della sicurezza del futuro di Israele, cioè se partire a terra con i palestinesi o no, ma ponevano la questione sempre sul lato, come dire, più grande di una Israele costantemente circondata dai nemici. Il voto di domani deciderà chi dei due ha più avuto ragione, se la sensibilità degli israeliani è più focalizzata sulle questioni economiche o sempre di nuovo sulla sicurezza. Effetto notte, le notizie in 60 minuti. Ancora una buonasera a tutti voi da Gigi Donelli. Scoccano le 21:48 minuti e dopo aver fatto un giro del Mediterraneo, delle capitali in fondo più vicine sui temi dell'attualità, adesso facciamo davvero un balzo, andiamo in Pakistan e se c'è il collegamento ci aiuta dovrebbe essere con noi Daniele Nardi. Buonasera Daniele. Ciao Gigi. Ciao Daniele. Ciao, intanto, intanto complimenti oggi. Davvero siamo contenti di averti qui. Daniele Nardi con alcuni compagni, con due compagni, ha tentato ostinatamente di raggiungere la vetta in invernale, ovviamente, del grande Nanga Parbat. Adesso ci racconterà, insomma, e diciamolo subito, una rinuncia davvero a una manciata di metri dalla vetta, ma forse potrebbe essere proprio questo il grande successo di questa scelta. Daniele, raccontaci tutto. Beh sì, hai usato i termini esatti, perché è proprio un'ostinazione ormai che dura da 3 anni, è iniziata 3 anni fa e quest'anno a pochissimi metri, a quasi 7.900 metri, a un certo punto abbiamo dovuto decidere di rinunciare e probabilmente è stato proprio questo motivo che ci ha permesso poi di riscendere tutti sani e salvi al campo 4, riuscire a passare un'altra notte e poi a scendere a valle. È un sogno che mi porto dentro ormai da tantissimo tempo e mi ha completamente coinvolto tutta la vita e credimi che nel momento in cui ho superato i 7.000 metri, abbiamo piazzato campo 4 e abbiamo visto che finalmente il brutto tempo finiva e giù verso la valle dell'Himalaya si vedevano tutte le luci bellissime con le punte più alte dell'Himalaya, è stata una sensazione bellissima. La notte siamo partiti, abbiamo continuato lungo il canale centrale della via Kishofer, che è questa via che abbiamo scelto per salire, finché a un certo punto durante la notte però purtroppo ci siamo persi, perché non è facile orientarsi su questa piramide triangolare rocciosa del Nanga Parbat, e quindi quando siamo arrivati intorno ai 7600 metri, 7700, degli 8125 del Nanga Parbat, a un certo punto non riusciamo più a trovare la strada per salire. È stato proprio a quel punto che abbiamo continuato a insistere, abbiamo trovato un'altra scappatoia verso sinistra, però poi a un certo punto diciamo che il nostro amico pakistano che era lì con noi ha cominciato a congelare, ha cominciato ad avere dei segni, dei sintomi di male acuto d'alta montagna, e a quel punto abbiamo dovuto decidere di fare marcia indietro. Era appena arrivata l'alba, quindi puoi immaginare che emozione grandiosa essere così a due passi proprio dalla vetta e dover decidere per la nostra vita, per la vita di questa persona, a dover scendere dalla montagna. Ecco. È un'avventura grandiosa, io ringrazio tutti i miei compagni, ma ecco, sento anche un po' la delusione di essere arrivato così vicino dal mito e dover essere tornato indietro. Beh, chiaro, questo direi che è più che comprensibile. Invito gli ascoltatori ad andare su www.danielenardi.org. Quando Daniele dice trovare la strada, ecco, io non posso immaginarlo, perché un colosso come il Nanga Parbat l'ho visto solo nelle fotografie, ma sicuramente già dalle immagini che tu hai postato si capisce che è una specie di matrioska. Ogni volta che salite un pezzo c'è un'altra montagna e poi un'altra montagna. L'ultima foto che hai postato è comunque una grande montagna per noi. Esattamente, se noi andassimo a misurare il dislivello che c'è fra il campo base e la vetta, noi avremmo scalato qualsiasi altra montagna di 8000 metri con i 3600 metri scalati, però purtroppo per il Nanga Parbat, che ne ha quasi 4000 dal versante che noi abbiamo tentato, non sono bastati, per cui quei fatali 300 metri, poco meno di 300 metri finali, praticamente ci hanno impedito di superare le ultime pareti ghiacciate e rocciose, che tra l'altro ci aspettavamo molto più semplici. Io da questo versante l'ho già scalato nel 2008 il Nanga Parbat, e le condizioni estive, credimi, sono estremamente più semplici di quelle invernali, per cui eravamo anche un po' leggeri con l'attrezzatura, quindi un po' per l'aspetto fisico, un po' per la stanchezza dei giorni precedenti, perché abbiamo forzato la salita a campo 4 anche in mezzo al brutto tempo per trovarci alla finestra, cioè quel giorno particolare che era un giorno particolarmente bello per salire in vetta. Insomma, alla fine in qualche modo siamo riusciti a scendere anche un po' rocambolescamente dalla montagna per arrivare poi a campo 4 e l'altro ieri poi arrivare al campo base. Quindi, ecco, arrivarci tutti sani e salvi, come hai detto, che probabilmente quella decisione importante ha portato a questo. Tra l'altro non ti ho neanche chiesto, scusami che maleducato, dove sei in questo momento? In questo momento sono nel villaggio di Ser, che è questo villaggio che è durante il trekking di rientro, quindi è una giornata dalla civiltà. E siamo qui, diciamo in Pakistan a quest'ora sono quasi le 2, quindi... Sì, perché non contenti di questa davvero sovrumano sforzo di scalare un colosso, cioè, sono anche gli amici giornalisti che ti svegliano in piena notte, perdonaci, però... No, grazie mille. Ecco, dalla tua voce direi che le forze davvero sono tornate. Dalle foto, che lo ricordo, si vedono su danielenardi.org, invece ti vedevo veramente allo stremo, posso dirlo. Lo puoi dire con chiarezza, considerando che sono quasi 3 mesi al campo base, sono veramente allo stremo della cosa, sono disintegrato, come si dice a Roma, dalle parti mie, perché poi tra un tentativo e l'altro, passare poi dal mio sogno che era lo Sperone Mammeri, fino a incontrare questi nuovi compagni di cordata che sono Alex Chikon dai Paesi Baschi, e poi Alisa Vara dal Pakistan, e quindi unirmi a loro, creare questa nuova sinergia e in maniera così immediata trovarsi bene e arrivare ad un passo dal sogno, è stato per me un'avventura grandiosa. Certo, è una sconfitta a pochi metri dalla vetta, però come ripeto sempre io, l'alpinista bravo, e l'hanno detto anche i grandi alpinisti come Walter Bonatti e Boccalatte, cioè l'alpinista bravo non è quello che arriva in vetta, ma è quello che torna a casa. Noi siamo tornati tutti e tre felici al campo base, quindi questa è stata, cioè, più passano le ore più mi assaporo questa grande avventura, come un'esperienza straordinaria della mia vita da mettere nel cassetto e da riusare per il futuro. Sì, anche perché nel tuo caso tu di solito in vetta ci arrivi, quindi insomma non è una questione così appunto ristretta a questa avventura. Daniele Nardi, grazie davvero, complimenti, tantissimi complimenti da tutti noi. Ancora una volta invito gli ascoltatori a vedere appunto danielenardi.org per visualizzare questa formidabile impresa. Un abbraccio e buonanotte. Grazie Gigi, buonanotte a tutti. Eccoci qua, in conclusione abbiamo invece un collegamento che ci porta di nuovo vicino a casa. Abbiamo con noi Nicola Vitiello, lo ringrazio di aver atteso, chissà, penso che avrà apprezzato però di sentire Daniele Nardi al Nanga Parbat. Pronto? Buonasera. Buonasera. Sì, buonasera, la ringrazio innanzitutto per la possibilità di parlare del progetto e assolutamente sì, ho apprezzato e seguo le avventure di Daniele Nardi. Fantastico. Quindi, allora, Nicola Vitiello, parliamo invece di un progetto europeo che si chiama CyberLegs, è stato finanziato con 2,5 milioni di euro dalla Commissione e, come si intuisce, è un lavoro su un prototipo di tecnologia delle gambe. Qual è la sua peculiarità? Ma noi avevamo un sogno, no? Un po' come Daniele Nardi, ma noi avevamo un sogno che era quello di provare a sviluppare nuove macchine, nuovi sistemi robotici per aiutare gli amputati transfemorali in particolare a camminare di più, a fare più metri, diciamo, ecco, a fare le loro piccole scalate quotidiane. E per fare questo siamo andati un po' oltre il concetto della protesi. Uno immagina l'amputato ha a disposizione una protesi che è quella che rimpiazzerà l'arto. Il problema è che le protesi, per quanto sofisticate potranno essere e sono, non saranno mai l'arto, no? Che è stato amputato. Vero. Quindi il cammino, l'arto vero, quindi il cammino sarà necessariamente meno efficace, meno efficiente. Allora, Daniele Vitiello, che ha atteso, io mi scuso, gli do appuntamento a domani sera, torneremo a parlare di questo progetto. Ormai sono le 21:56, mi sono fatto prendere dall'alpinismo del Nanga Parbat, quindi chiedo scusa a lui e saluto tutti voi. Tra qualche istante gli aggiornamenti di GR24, appuntamento domani sera per risentire di che cosa si tratta meglio questo progetto. Buonasera a tutti.